non è normale, anzi assolutamente spiacevole che accadano episodi di questo tipo, ma può succedere di trovare un parassita nei prodotti ortofrutticoli. Ma mi voglio spiegare se mi dà un... Prego, assolutamente. Per graduare un po' le cose, una cosa è rinvenire un parassita in una scatola di tonno, un pezzo di vetro in un vasetto di marmellata o altri esempi di questo tipo qua. Cosa diversa è rinvenire un parassita in una ciliegia, in una noce, oppure una lumaca sull'insalata, voglio dire, sono cose che incresciose, non sono... Però possono capitare, normali, ma possono certo, capitare. Lei dice per la natura stessa del prodotto che si mette in vendita. Detto che capita, spiacevoli sempre, abbiamo spiegato come funziona il nostro sistema di autocontrollo e abbiamo attivato tutti quei controlli possibili che c'è appunto con gli elementi a nostra disposizione che avevamo in mano a quel momento. Ecco, c'è stato un accenno però da parte del professor Melapione, una cosa che vorrei che lei spiegasse. Cioè il professor Melapione a un certo punto ha detto, ma mi è stato detto che non era un prodotto a marchio Coop. Le chiedo, vuol dire quindi che l'attenzione, anche doverosa, ai vostri marchi, a quello che voi commercializzate con la scritta Coop sopra le confezioni è maggiore rispetto magari ad altri prodotti che invece non derivano dalla vostra produzione cooperativa? Va detto che per i prodotti confezionati, qual era questo prodotto, chiaramente non è che Coop non sia responsabile, ma entra in un ambito di corresponsabilità con il produttore. Certo. Per il prodotto a marchio Coop, del quale noi ne facciamo sicuramente un vanto in termini di qualità, c'è chiaramente un'attenzione nei controlli molto superiore.